Bueno, estamos aquí en los estudios de la radio comunitaria Caleuche de la ciudad de Esquel, en la provincia de... la ciudad de Esquel, en la piccola radio comunitaria. Con integrantes del LOF en resistencia del departamento Cuyamen. Con due rappresentanti dell'OFF in resistenza Cuyamen. Fondamentalmente come ha sido questo processo di recuperazione territoriale. Raccontateci com'è stato questo processo di recupero dei territori. 15. Non so se chi mi chiede dare sus nomi, e poi mi raccontate i vostri nomi. Bueno, mai conta perché c'è che tu inizi un gufa santo. In c'è Fernando Sone Guala Pinguen, Mongolein tu facci Mapumeu, poi il Mapumeu. Bueno, mi nombre es Fernando Shanehuala, un saludo a toda la gente. El mio nome è Fernando Shanehuala, chiaramente la presentazione prima è stata in Mapudungun. Si ubica al sur de la Argentina. Vengo da una comunità che viene dal sud dell'Argentina. Allora adesso sto così saltando queste presentazioni, noi parleremo appunto con Nico e Mati, che sono questi due compagni, tra l'altro direttamente coinvolti negli atti di cui parleremo, che riguardano il 10 e l'11 gennaio. Mapuche e il processo di recuperazione territoriale. Allora, raccontateci come della lotta Mapuche e come... cominciò in marzo 2015. Di come portate avanti questa opera di riappropriazione delle terre. Che il processo esattamente di recuperazione inizia il 13 marzo del 2015, ma la lotta del popolo Mapuche è una lotta che va avanti da circa 300 anni, prima contro la corona spagnola, poi contro il nascente Stato argentino, e in particolare le terre che stiamo rivendicando dal 2015 con la nostra comunità. In questo momento, in primo momento, l'Argentina l'ha servite agli inglesi come forma di pagamento, perché gli inglesi finanziarono militarmente la conquista del deserto e quindi il genocidio al popolo Mapuche, che venne in quel tempo cacciato dai suoi territori ancestrali. Venimo esistendo hace miles de años en este territorio y bueno, ante ese planteamiento, o desde ese planteamiento es que se inicia el proceso de recuperación y bueno, el Estado. Allora, diciamo che il 13 di marzo, all'inizio degli anni 90, la holding Benetton diventa proprietaria di questa terra, e stiamo parlando di 900.000 ettari di questa parte della Patagonia. Il 13 marzo del 2015 è stato il giorno che siamo entrati in questo territorio per una necessità del popolo e non solo di alcune famiglie, perché ci vediamo circondati da diverse pratiche repressive che vengono attuate dalle differenti istituzioni repressive dello Stato, e che fondamentalmente non sono mai cessate contro il popolo Mapuche. Sono cambiate le forme di sottomissione del popolo, di oppressione e di sgombero, ma il governo non ha mai dato opzioni. In questo specifico momento critico, tra l'altro, abbiamo scelto di lottare per continuare ad esistere, così come lottiamo per continuare ad esistere da centinaia di anni nei nostri territori. Bueno, estamos aquí en los estudios de la radio comunitaria Caleuche de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, en Argentina, con integrantes del LOF en resistencia del departamento Cuyamen. Per contarles un poco qual è la situazione. Ecco, allora, come vedete, non sempre è facile mandare le due cose insieme. Fronteras con el pueblo nación Mapuche, y bueno, el Estado argentino rompió todos los tratados, todos los acuerdos, y a lo largo de la historia ha seguido con esta práctica de no ir al diálogo, sino ir seguir avasallando de diferentes formas al pueblo Mapuche. Y en esta recuperación que se inició el 13 de marzo de 2015, también, como en otras recuperaciones a lo largo de la historia, en otros procesos de lucha del pueblo Mapuche, también se está esperando el diálogo político serio. Allora, diciamo che sono cambiate le forme di sottomissione, oppressione, sgombero verso il nostro popolo, e il governo non ha dato altre opzioni. In questo particolare momento critico non ci dà opzioni. Le due opzioni sono o lottare o morire, e chiaramente noi abbiamo scelto di lottare per continuare ad esistere, come lottiamo per esistere da centinaia di anni nei nostri territori. Questo è il principio da cui nasce il nostro percorso di recupero. Lo Stato non ha mai risposto alla chiamata del popolo Mapuche. Non solo quella di oggi, ma nei decenni di lotta di resistenza del popolo mapuche. Il popolo ha avuto una capacità di dialogo molto alta, addirittura abbiamo avuto dei trattati con la corona spagnola, che ha firmato e ha accettato dei trattati di pace e accordi di frontiera col territorio popolo nazione mapuche. Invece il governo argentino ha rotto completamente accordi che c'erano da decine e centinaia di anni, e nella storia ha seguito la pratica repressiva senza mai voler scendere al dialogo, ma semplicemente con la unica strategia di continuare a reprimere in diverse forme il popolo mapuche. Anche in questa, nel recupero che è iniziato appunto il 13 marzo 2015, come in altre durante la storia del processo di lotta del popolo mapuche, si sta aspettando un dialogo politico che però sia serio da parte dello Stato. Invece l'unica cosa che abbiamo ricevuto sono stati proiettili, balas, di cui abbiamo parlato spesso, sono questi piccoli proiettili devastanti di gomma e di plastica, e diversi tipi di irruzioni, di tentativi di sgombero e di perquisizioni. Bueno, estamos aquí en los estudios. Allora, in questo momento ci sono circa 20 processi giuridici che stanno sopportando montaggi politico-giudiziari, e tutto questo si somma a una grandissima campagna mediatica da parte dei mezzi di informazione nazionali e regionali. Consensuando diferentes formas de continuar esta mesa de diálogo, esta negociación, como la llamaban, y después de dos instancias de mesa de diálogo, una político serio por parte del Estado, pero lo único que hemos recibido son balas, hemos recibido diferentes tipos de allanamientos, intentos de desalojo, y bueno, y hasta el momento hay un poco más de 20 procesados judiciales bajo montajes políticos judiciales estamos padeciendo, y bueno, todo esto sumado a una gran campaña mediática por parte de los medios oficiales de la zona. A ver, ¿cómo describirían, cómo contarían un poco, quienes no han seguido de cerca toda esta historia, los hechos ocurridos en los últimos días, que fueron quizás los más intensos en todo este proceso? La domanda è quella appunto di descrivere quelli che sono stati i fatti degli ultimi giorni, quindi del 10 e 11 gennaio, che sono stati forse i più intensi nell'ultimo periodo. Il 10 gennaio del 2017, 40 anni, si hace presente in gendarmeria alrededor de las 7 y media de la mañana, con una orden de despejar las vías del ferrocarril. Allí, bueno, con el tiempo después del proceso de recuperación, tenemos un pequeño conflicto con lo que sería el viejo expreso o patagónico La Trochita, en los cuales se sostuvo dos instancias de mesa de diálogo, en las cuales se fueron consensuando diferentes. Allora, stiamo parlando di martedì 10 gennaio, quando praticamente a seguito di alcuni accordi che erano stati presi durante un tentativo di tavolo di dialogo. Nella Unità 14, quando stava il nostro Lonco Francisco. C'erano stati due incontri, insomma, diciamo, le due istanze riguardavano: una, il controllo della la liberazione del ferrocarril, perché praticamente in una di queste due recuperi delle terre si erano, diciamo, ristanziati, e quindi veniva chiesto loro di lasciar passare le macchine che servivano a fare alcuni lavori che poi non erano mai stati portati a termine, che erano quelli appunto di restituire l'acqua alla comunità, insomma. Accordi che non erano stati compiuti. Eso se cumplió, nosotros cumplimos, y por parte del Estado todavía no han recibido respuesta a lo que nosotros estábamos, a lo que se había consensuado en la mesa de diálogo. El tema del agua en la comunidad. Il problema era appunto quello dell'acqua in questa comunità, visto che appunto il serbatoio dell'acqua era in pessime condizioni, insomma. O hacer bajar algo impertinente para conversar también las situaciones que están pasando en nuestro pueblo, ¿no? Cuando tenemos esa oportunidad, como comunidad tratamos de sumarse todos como pueblo, porque esto no... Quando hanno avuto la possibilità, insomma, di unirsi come comunità, sono scesi a chiedere delle a fare delle manifestazioni che chiedevano che venissero rispettate le convenzioni, e si chiedeva la fine di questi lavori. Le istituzioni repressive hanno realizzato un video della protesta dicendo che era un'occupazione della strada e che quindi erano dei terroristi e che erano gli stessi Mapuche che non volevano che, insomma, che impedivano il passo a questi mezzi, e quindi di nuovo una campagna mediatica molto pesante verso di loro, appunto descrivendoli come terroristi. Un intento di criminalizzare anche mediaticamente la società, la comunità, per l'impiego, supuestamente ellos, che stavamo impedendo il passo alla Trochita. Cuando nosotros le estábamos solicitando que solamente se respete el convenio 169 a la consulta previa y informada. Bueno, ahí el señor gobernador sale a decir que no le va a pedir permiso a terroristas, de que somos todos activistas. Nos tiró un montón de situaciones en las cuales, bueno, al fin y al cabo el señor Guido Tranto termina judicializando a la comunidad en su conjunto. E ahí è donde sale la orden de despejar las vías. Mentre erano lì, durante appunto queste manifestazioni, è arrivato l'ordine di sgombero della comunità. Fortemente gendarmeria con 200. E quindi è arrivata la gendarmeria con 200-300 militari, e subito in forma molto violenta hanno sparato già dall'inizio, dicendo che avrebbero dovuto sgomberare, che c'era un ordine, che quindi anche se non si fossero andati via loro sarebbero passati comunque. Sparando hacia nosotros hicimos uso autodefensa come derecho legittimo. Non potendo sostenere l'attacco, la comunità si è ritirata, mentre si ritirava le persone sono state rincorse mentre gli si sparava addosso, e tre persone sono state arrestate, altre quattro hanno dovuto addirittura buttarsi nel fiume per potersi salvare. Quei quattro che si potevano tirare dal rio e salvarsi, diciamo, della forza repressiva. Alrededor de las 11 de la mañana, en el juzgado penal aquí de la provincia, el señor Coladeli firma una... Alle 11 del mattino, della mattina dopo, il signor Coladeli firma un ordine di sgombero e di sequestro degli animali. Con la scusa che gli animali erano troppo magri e quindi venivano maltrattati, quindi bisognava sequestrarli. E quando la comunità è andata effettivamente a verificare dove fossero gli animali, non ha più trovato bestiame, né in particolare i cavalli. La comunità di ahí vuelta al río, la más cercana, y otros peñas también que vienen a la ciudad, que por lo mismo, ¿no? Problema territorial, el despojo y la historia que también tenemos nuestro pueblo. Los campos solo pastoreados y demás, y es que sus animales estaban flacos y decidieron bajarlo al territorio recuperado. Cuando lo vamos a ver el estado de los caballos, a ver cómo están, lamentablemente los caballos no están. Llega personas que nos habían informado que se lo estaban llevando de arriba. Sono arrivate delle persone che li stavano informando che stavano portando gli animali a questo deposito di una compagnia, insomma. Lo cargavano in un camion carguero e se lo llevano lo cargavano in tempo. Intanto era già arrivata molta gente a portare sostegno dalla mattina, ma avevano trovato tutte le vie di accesso all'off che era stato lasciato completamente isolato, quindi diciamo sotto assedio. Un procedimento è iniziato alle 6 della mattina. L'assedio dell'off è iniziato verso le 6 della mattina e è finito alle 3 del pomeriggio. E la gente all'interno era abbastanza spasata, non si trovavano persone, non si capiva cosa stesse succedendo, in più non si sapeva dove fossero i nostri cavalli. E in particolare tra questi c'era un cavallo particolare che usiamo nella nostra cultura come animale da cerimonia, che ha un significato molto particolare. Que son un uso, digamos, de nuestra cultura. Entonces ya empezamos como a correr contra el tiempo y también a ponernos nerviosos en ese sentido de no saber dónde estaban los chicos que se han... Eravamo molto preoccupati, abbiamo cominciato una corsa colto in tempo, eravamo molto nervosi, non sapevamo dove fossero i compagni che mancavano e quelli che erano stati arrestati, e tantomeno i nostri cavalli. Quindi ci siamo divisi in gruppi per andare alcuni a cercare le persone che mancavano e altri a capire le persone che erano state arrestate, alcune verso l'ospedale ed altri a cercare gli animali. Una camionetta 4x4 e Amarok. Quando ci dirigiamo verso i Pen vediamo passare il camion che caricava i cavalli, riusciamo a superarlo, ma dopo è arrivata una camionetta che ha subito cominciato a spararci addosso, colpendo la camionetta, ferendo delle persone. Alcuni di noi addirittura sono stati costretti a raggiungere da soli l'ospedale di Nai Pen perché nessuno li ha soccorsi. E dopo questa camionetta, appunto, arrivati all'ospedale, sono arrivati altri effettivi della polizia che hanno cominciato una violenta repressione fuori dell'ospedale, una aggressione contro le persone, lasciando appunto le persone con colpi in testa. Y otro, bueno, toda la gente muy asustada, mucho nerviosismo. A nosotros nos avisan lo que estaban pasando y no sabíamos cómo actuar, qué hacer. E anche qui hanno portato via un compagno. Continuavano a negare di aver arrestato delle persone. Ci sono stati momenti di forte tensione perché la polizia negava di averli arrestati, ma noi sapevamo che erano in mano della forza repressiva e che quindi da un momento all'altro gli poteva succedere qualsiasi cosa. Loro continuavano a negare, ma dentro il commissariato vedevamo che mettevano i giornali alle finestre per non far vedere chi c'era dentro. A mia sorella in particolare l'hanno minacciata di spararle in testa, dicendo bisogna ammazzare questi indios. E insomma, sappiamo di che livello stiamo parlando, non è la prima volta. Quedando detenido y bueno, y una vez más negando la detención de estas personas, la policía de la provincia de Chubut y también en conjunto con lo que serían los médicos de Maitén, que también empezaron a ponerle diario a las ventanas para que no se vea que la gente está ahí adentro. La verdad fueron momentos de mucha tensión y de preocupación también, porque sabemos que ellos estaban en manos de la fuerza represiva, que en cualquier momento le podría haber pasado cualquier cosa a alguno de ellos. Bueno, lo que pudimos conversar después, que lo efectivo de la policía amenazaban constantemente en... Questo succedeva intorno alle 5, poi intorno a mezzanotte e mezzo abbiamo saputo che i compagni e le compagne detenute erano in 7 nella località di Maipen e li avrebbero portati al commissariato prima di Esche e poi all'unità 14. In totale 10 detenuti, questo passò come alrededor delle 5 della tarde. Recién a las 12 y media de la noche sabemos que los chicos están en la localidad de Maipen, los 7 detenidos, y que lo estaban trasladando a la comisaría primera de Esque. Bueno, también pudimos saber que los otros chicos estaban en la unidad 14. Nel suo principio erano stati picchiati, avevano dei segni sul viso, ma in linea di massima stavano bene. Bueno, el martes y el miércoles, bueno, y el miércoles 11 estábamos ya en hora de la tarde esperando noticias del... Il giorno dopo, il mercoledì, intorno alle 8 della tarde e della notte, si è presentata una squadra di gendarmeria all'off. 8 o 9 la tarde ya se presenta una traffic di infanteria, per la quale estuvo rondando todo el día por afuera de la LOF. È arrivato subito in maniera molto a intimidire la gente, arrivando in maniera molto violenta, con le sirene spiegate, insultando le persone, e sono state tutto il giorno con il megafono a insultare chiunque passasse. Noi avevamo un'altra preoccupazione, che era quella di andare a liberare i nostri compagni, di riprendere il nostro bestiame, invece siamo dovuti andare a vedere che cosa succedeva. La camionetta era sulla strada 40 di Maitén. E noi e ci siamo avvicinati per chiedere che cosa stesse succedendo. Stazionata in esa intervención, fuimos a ver con unos peñi más a ver qué lo que estaba pasando, ¿no? Cuando estábamos llegando al lugar, logramos ver que estaban todos los efectivos afuera de la camioneta, formándose ya para lo que sería el ingreso o el enfrentamiento que hubo. Quando nos asomamos, appena nos asomamos, ya empezaron a disparar. Eravamo a circa 200 metri, abbiamo visto gli effettivi fuori della camionetta che appena ci hanno visto si sono subito messi in assetto d'attacco e quindi non abbiamo fatto in tempo a radunarci, a compattarci, che ci hanno attaccato sparandoci con l'ordine di matena uno, ammazzatene almeno uno, e quindi sparandoci anche da distanza molto ravvicinata. Allora noi ci siamo riorganizzati, abbiamo cercato di organizzare dell'autodifesa insieme ad altri ragazzi che stavano lavorando e hanno visto cosa stava succedendo, ma di nuovo la polizia ci ha attaccato in maniera molto brutale, sparandoci continuamente addosso a distanza molto ravvicinata. Non si sapeva come rispondere se non tirando pietre, perché arrivavano solo proiettili, proiettili, proiettili, e noi quando ci riuscivamo tiravamo delle pietre. Durante lo scontro un militare ha ferito gravemente Martignano José Huala, lo zio di Emilio, che già era stato ferito negli scontri del giorno precedente, scaricandogli la Itaca, che è una sorta di fucile aria compressa a pompa a distanza ravvicinata, sul volto, distruggendogli la mandibola. La Itaca si è su persona, no? E l'arma di fuoco stava portando tipo scopeta. Pochi minuti dopo che era successo questo fatto, a Fausto gli hanno sparato alla testa, lesionandogli il cranio, ed ora è in terapia intensiva. Si passeron 10 minuti da che passò questo con il pain, un poco meno, Nel caos del momento non si capiva più se le forze repressive stessero arrivando o se ne stessero andando. Sparano alla testa e con un traumatismo del cranio che le costò stare vari giorni in terapia intensiva. La infanteria sin ningún tipo de orden, todavía no sabemos ni entendemos por qué su llegada y tampoco su retirada. Fue, bajó, subió, reprimió, lastimó y se fue. Lo que está pasando todavía en estos momentos son lo mismo, una persecución mediática, repressiva. Quello che sta succedendo in questo momento inoltre è anche una forte repressione mediatica verso di noi per voler portare avanti una lotta che va avanti da molto tempo, la ricostruzione del nostro popolo come Mapuche, la liberazione del territorio nazionale mediante il recupero e il controllo territoriale. È quello che noi chiamiamo un dialogo politico serio del conflitto. Nunca se non ha garantizzato, già che. Questo però non viene garantito dal governo, visto che si dimostrano in tutti i modi con dei fatti violenti e si stanno dimostrando con questi atti a quali interessi risponde lo Stato argentino, agli interessi della multinazionale Benetton. Quello che vi ho raccontato è accaduto martedì e mercoledì 10-11 gennaio, molta repressione c'era stata anche a Useque e anche lì ci sono stati atti di violenza verso i Mapuche. Sí, se dio la visita de, que me parece como uno de los hechos también importantes que se generó, la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia ahí en el territorio, que le fueron a visitar, tratando de generar de nuevo, por lo menos generar una especie de diálogo, por lo menos lo que decía Panisi, Alejandro Panisi, cuando llegó ahí al territorio, que estuvo acompañado por otro abogado de la ENDEPA, que es Eduardo Hualpa, después de todos los acontecimientos que contaba. Allora, sta parlando, la domanda riguarda Alejandro Panisi, che è andato con un altro avvocato, insomma, di quali sono ancora, se ci sono ancora possibilità di dialogo tra lo Stato argentino e Mapuche. Y bueno, como siempre repetimos, nosotros siempre esperamos el diálogo, pero ante estas situaciones que ya son de conocimiento internacional, aparecen ciertos. Come ripetiamo sempre, noi Mapuche, noi aspettiamo e cerchiamo il dialogo, ma davanti a questa situazione e a questi atti che sono ormai di conoscenza internazionale, vediamo apparire alcuni personaggi che sappiamo essere funzionari dei padroni del potere e asserviti ai grandi interessi capitalisti. Chiede il dialogo. Pero cuando las comunidades mapuche. Il governo vuole il dialogo, ma quando le comunità mapuche sta chiedendo il dialogo da 200 anni, sono decadi che sta chiedendo il dialogo. Con 200 anni di menzogne. 200 anni di menzogne, con 200 anni di menzogne costa moltissimo credere che in questa parte della storia. Che in questa parte della storia realmente si possa arrivare a un dialogo politico serio. Pero no perdemos la esperanza de que los funcionarios realmente. Ma non perdiamo la speranza che i funzionari realmente lavorino in funzione del popolo e non degli interessi economici e che realmente si possa arrivare ad aprire una via al dialogo, perché si arrivi a concretizzare un dialogo politico serio. Allora sì, realmente cambierebbe la storia dello Stato argentino. E sta in mano ai funzionari che in questo momento rappresentano le diverse istituzioni a livello provinciale e nazionale. Sta in sus manos il poter cambiare la storia. Il potere di cambiare la storia sta nelle loro mani, il poter veramente arrivare a, come si dice, ad un buon puerto, ad un buon punto nel quale possiamo degnamente, come esseri umani, mettere davanti i valori come il rispetto, la cordialità, la sincerità. La cordialità, la sincerità. E así que realmente, realmente vogliamo che il governo, creemos que, e crediamo che il governo, pueda llegar a un dialogo politico serio, lo que le hemos pedido como possa arrivare a un dialogo garantía, politico serio, quello che gli abbiamo chiesto come garanzia, che se vogliono che torniamo a credere alle loro parole dopo tanti decenni, a creer en su palabra, es que en primera instancia devono in prima stanza, istanza ritirare la gendarmeria nazionale, che demilitarizzino il territorio, la demilitarizzazione del territorio, a los referentes mapuche, porque nosotros somos luchadores sociales y sufrimos la cessazione anche dei montaggi politici giudiziari e la persecuzione delle autorità mapuche. Fin quando ellos nos den esta garantía del cese de la violencia, quello sarà il momento in cui noi cominceremo a credere che stanno facendo le cose come dovrebbero farle. Recién ahí es cuando vamos a empezar a creer de que están haciendo las cosas como deberían hacerlas. Por ahí no sé la situación de lo que se da con Benetton. Benetton es como que hasta este momento. Allora, ci vuoi raccontare, questa è un'altra domanda, intanto cosa sta succedendo con Benetton? Perché sembra che quasi mentre il governo e le comunità si fanno la guerra, Benetton approfitta. La situazione di Benetton intorno a questa storia. Benetton, con tutti gli hechos che hanno succeduto. Benetton con tutto quello che è successo, marzo 2015, sino che già una, ma anche con, non solo con il recupero del 13 marzo del 2015, ma anche di quello della terra da parte, per esempio, della famiglia di Rosa Nelkir e di Attilio Culignanco, circa 10 anni fa, un poco más de una década. Y bueno, Benetton tiene, ejerce una gran presión y realmente controla todo lo que es el territorio y tiene, hasta tiene una comisaría dentro de sus campos, una comisaría que trabaja netamente para, como seguridad privada. Benetton esercita una grande pressione, realmente controlla tutto il territorio, ha un commissariato nella sua terra, anzi due commissariati ufficiali che lavorano nettamente come sicurezza privata, il commissariato di Lelleke e anche quello di Naiken, che sono due commissariati che ubbidiscono direttamente agli ordini di Benetton. Per questo soffriamo molta repressione, proiettili da parte della polizia, che tra l'altro attua in totale impunità, creando una sorta di zona liberata di repressione delle comunità mapuche che stanno appunto rivendicando questi spazi territoriali ancestrali. Bueno, acá Benetton, a parte de sus ovejitas, que esa es la fachada, él es un holding en el cual tiene inversiones. Qui diciamo Benetton, a parte le pecore che sono proprio la facciata, è una holding che ha affari in varie parti del mondo, minerario, petrolifero, idroelettrico, foreste di pini. Però bueno, ma nei 900.000 ettari che possiede di questa parte del territorio ha già pianificato cantieri minerari e ha una compagnia mineraria che si chiama Minsur. La intenzione di Benetton, avallato per tutta questa campagna, è l'intenzione di Benetton, avallato da tutta questa campagna mediatica e dai fatti repressivi e la violenza istituzionale che sta esercitando sulle popolazioni mapuche, pretende iniziare questo processo minerario e pretende costruire una fabbrica di cellulosa nel territorio di Benetton. Passa un fiume che si chiama il Rio Chut, che nella zona sud attraversa tutta la provincia sud dell'Argentina da una parte all'altra. Attraversa il paese, si quiere, questa porzione del paese la attraversa de lado a lado, Entonces nosotros en el territorio que estamos... Quindi noi in questo territorio che stiamo difendendo e proteggendo e anche recuperando, stiamo proteggendo l'equilibrio naturale della vita affinché no puedan non si possano realizzare i piani minerari di Benetton, los cuales generarían, che genererebbero un impatto ambientale devastato, una distruzione dell'ambiente che sarebbe irreparabile e porterebbe gravi conseguenze per le generazioni presenti e anche quelle future. E queremos che il mondo si entere chi è realmente Benetton. Vogliamo che il mondo veramente si renda conto di chi è Benetton, di chi sono i poteri che comandano nel paese. L'Argentina, más que ser un Estado o una Repubblica Federale, perché l'Argentina in questo momento, più che sembrare una Repubblica Federale, uno Stato federale, in questo momento sembra una grande impresa che busca, che cerca di realizzare tutti i suoi progetti, che hanno questi grandi terratenenti come Benetton e altri, come Lewis, entre otros. Como para ir cerrando la charla, más allá de esta situación que se ha dado, la judicialización, recordemos que se le ha intentado aplicar la ley antiterrorista, inclusive en algún momento dado, me estabas mencionando. Allora, abbiamo già parlato della legge antiterrorismo approvata sotto la dittatura di Pinochet, ancora oggi attiva nella Repubblica Argentina e Cilena, e la relazione con la loro lavoro di recupero dei territori. Todo este aparato represivo que se ha montado, la intención de permanecer y continuar con la recuperación territorial sigue firme. Sigue firme desde un principio y a pesar de cada hecho violento que hemos sufrido. Sí, la recuperación del territorio es un principio fermo que abbiamo, y nonostante i fatti que abbiamo sofferto, como si dice, quello que no te uccide ti rende più forte. Sí, ya hemos aprendido de la historia, de los errores y de los aciertos que han tenido diferentes comunidades. Abbiamo imparato dalla storia, dagli errori, ma anche delle certezze, dai fatti che abbiamo passato nelle comunità, ma anche dalle delle autorità ancestrali mapuche, si sostiene esta lucha, che con questa conoscenza oggi si alza e si segue questa lotta. Estamos en un punto critico. Come dicevamo, siamo a un punto critico. Non solamente el Estado, con la storia, perché come dicevamo non solo con lo Stato, con questa oppressione che porta avanti contro il popolo mapuche, ma anche contro altri popoli ancestrali che si trovano dentro questo Stato, che non dà altre opzioni che lottare e continuare ad affermare la propria esistenza resistendo o smettendo di esistere. Luchar por seguir existiendo con todas sus prácticas culturales, políticas, filosóficas y sociales, o perecer, dejar de existir. Y así que nosotros, como muchas otras comunidades que cada vez se van sumando, è così che noi insieme ad altre comunità che si stanno aggiungendo abbiamo optato per la vita. Y seguiremos ejerciendo scegliamo di continuare ad esistere e continueremo a esercitare il diritto all'autodifesa. E se in questo esercizio dovesse uccidere qualcuno del popolo mapuche, la lotta non si fermerà. No, la lucha no va a terminar porque, perché la lotta è esplosa, ormai è esplosa, è forte e non smetterà finché non raggiungerà l'obiettivo, che è raggiungere la liberazione nazionale, la liberazione della nazione mapuche, e poter continuare essendo liberi mapuche in un mondo integro dentro i nostri territori ancestrali che ancora esistono in questa strana versione del mondo. Libres, poter seguir siendo mapuches de forma íntegra dentro de nuestros territorios ancestrales que aún existen en esta porción del mundo.